La Costituzione è una legge speciale, perché la Costituzione è la legge fondamentale dello Stato, cioè sono le regole di base della nostra vita, le regole che ci rendono cittadini. Perché prima della Costituzione, prima del 2 giugno 1946, noi non eravamo cittadini, eravamo sudditi. Ascoltiamo l'articolo, letto da Gaia Messer-Klinger, e poi il mio commento. Perché la Costituzione dobbiamo conoscerla per essere cittadini, cittadini migliori. Articolo 54. Tutti i cittadini hanno il dovere di essere fedeli alla Repubblica e di osservarne la Costituzione e le leggi. I cittadini cui sono affidate funzioni pubbliche hanno il dovere di adempierle con disciplina ed onore, prestando giuramento nei casi stabiliti dalla legge. Con l'articolo 54 arriviamo alla conclusione della prima parte della Costituzione. La prima parte, ricordiamo, riguarda diritti e doveri dei cittadini. E questi ultimi articoli della prima parte concernono esattamente i doveri. L'articolo 52, la difesa, l'articolo 53, la capacità contributiva, l'articolo 54, la fedeltà alla Repubblica. È una formula sicuramente che sa anche di retorico, ma è l'impianto fondamentale di uno Stato. I cittadini hanno il dovere di osservare la Costituzione, hanno il dovere di osservare le leggi e quindi devono essere fedeli alla Repubblica. In Assemblea Costituente si sviluppò un ampio dibattito sull'opportunità di prevedere in questo articolo o accanto a questo articolo il cosiddetto diritto di resistenza. Cosa significa diritto di resistenza? Significa prevedere una clausola che consenta ai cittadini di rifiutare gli ordini illegittimi. Ovviamente il dibattito era molto vivace perché venivamo da anni in cui durante la guerra si erano commessi anche crimini veramente contro l'umanità basati su ordini illegittimamente dati, ovvero su ordini apparentemente legittimi dei militari che però contrastavano col senso comune di umanità e con i diritti fondamentali delle persone. In un caso del genere, il cittadino destinatario di un ordine palesemente immorale, palesemente contrastante con i valori, può rifiutarne l'esercizio? Può non adempiere? In Assemblea Costituente il dibattito venne troncato da un intervento di Togliatti. Togliatti infatti disse: «L'uso della forza è inutile da disciplinare, perché quando hai la forza per resistere a un ordine può finire in due modi. O sei veramente forte e quindi vinci tu, oppure se non hai la forza di vincere ti arresteranno». Questa considerazione, anche un po' cinica, è tuttavia molto realista e per questa ragione la Costituzione italiana non prevede formalmente il diritto di resistenza, cioè il diritto di rifiutare gli ordini apparentemente legittimi ma che contrastano col senso di umanità. Il secondo comma dell'articolo 54 parla del giuramento. È un giuramento interessante, il giuramento di fedeltà alla Repubblica. È un giuramento chiaramente promissorio. Promissorio cosa significa? Che ci si impegna a tenere un determinato comportamento futuro. Si differenzia invece dai giuramenti assertori, che sono i giuramenti che vengono invece prestati dai testimoni nei processi, che ovviamente riguardano fatti passati. Per cui è la promessa di essere fedeli alla Repubblica. Questa promessa riguarda in generale tutte le cariche, perché l'articolo 54 obbliga al giuramento i cittadini cui sono affidate funzioni pubbliche. Poi abbiamo degli articoli specifici che riguardano le cariche politiche, perché deve giurare il Presidente della Repubblica, il Presidente del Consiglio, giurano i ministri, invece non giurano i parlamentari. A differenza dell'epoca dello Statuto Albertino, quando invece era obbligatorio il giuramento dei parlamentari allo Statuto, al Regno. Oggi solo alcuni consiglieri regionali, in base ai propri statuti regionali, debbono giurare la fedeltà. Per quanto riguarda invece i pubblici dipendenti, il giuramento è generalizzato, riguarda non solo i dipendenti dei ministeri e delle amministrazioni, ma anche ad esempio i liberi professionisti, giurano fedeltà di osservanza alle leggi e alla Costituzione, notai, avvocati e altre categorie. Interessante rilevare che fra i pubblici dipendenti c'è una categoria che tradizionalmente è esonerata dal giuramento e sono specificamente i professori universitari, perché si riconosce questa autonomia scientifica, questa libertà della scienza e dell'insegnamento per cui si è sottratti al giuramento. Ovviamente, non giurare fedeltà all'osservanza delle leggi non significa certo che non bisogna rispettarle, in quanto questo giuramento è soprattutto una formula simbolica al momento in cui si entra nelle proprie funzioni.